Italia in controluce. La seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio quotidiano di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana, un programma condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Dopo gli scontri di Roma tornano gli anni 70, la violenza politica è ancora al centro dell'attività dei movimenti oppure fa storia a parte? Il reportage di Raffaella Calandra. In piazza a Roma c'erano degli infiltrati? Secondo me no, erano appunto migliaia di studenti che fanno parte delle varie componenti studentesche, Unidaiot, Link, UDS e quant'altro, auto-organizzati. Poi c'erano tanti giovani dirigenti sociali di tutta Italia, delegazioni abbastanza consistenti da Pomigliano, Melfi, da Fincantieri, di Ancona, i comitati di Tanzigno, Giuliano. C'erano tanti migranti senza casa, tante vertenze sociali. Nessun infiltrato, nessun agente provocatore, nessun black bloc. Ripercorre le istantanee degli scontri di Roma, Andrea Alzetta, il Tarzan di Action, legge del dibattito politico che si infiamma su questo tema e assicura: erano solo giovanissimi, nessuna autentica regia, anche negli scontri più duri. Non sono appartenenti a delle sigle predeterminate. È stata una cosa, a mio avviso, sincera, nel senso che non c'erano infiltrati o gruppi appunto di presunti black bloc. C'è una rabbia molto generazionale che ha fatto sì che anche diciamo il gruppo non piccolo, ma molto consistente, che ha fatto gli scontri diciamo più aspri, rispondeva comunque un consenso che non scappava nessuno in piazza del popolo. Quando c'è stato l'incendio del blindato c'è stato un boato in tutta la piazza. Studenti, questi protagonisti degli incendi del blindato. Studenti, in parte i ragazzi della periferia, in parte anche i ragazzi dei centri sociali. Nessuna strategia del terrore, per capirsi. Però concretamente le cose utilizzate, diciamo, contro le vetrine o per incendiare il blindato o per preparare le molotov erano state portate, quindi in qualche modo. Le molotov non si sono viste, no? I fuochi che sono adesso sono stati fatti col petardi con della benzina rimediata ai ribaltanti motorini. E tutto l'armamentario è stato reso durante il percorso, raccogliendo i sanpietrini per strada, hanno divelto anche il selciato, anni per armi, insomma. Che quelli sono stati portati, ovviamente. Quelli sono stati portati. Perché si è sentito il bisogno di raccogliere la benzina dai motorini? Ma questo è successo esattamente in concomitanza con la notizia che si è diffusa della voto di fiducia ottenuto da Berlusconi. E lì la gente ha la rabbia proprio diciamo travalicato anche un'intelligenza collettiva e una capacità di consenso che questo movimento invece è stato tanto capace di raccogliere. Tu hai detto c'è sfuggita la situazione, c'è sfuggita di mano. Sì, negli ambiti in cui avevamo immaginato anche pubblicamente, anche in maniera più riservata, la manifestazione, ci immaginavamo appunto un assedio sonoro con anche qualche tensione, ma a livello, per capirci, del 30 novembre. Il giorno cioè delle proteste più forti in più città contro la riforma universitaria e con le immagini ancora negli occhi delle colonne di fumo nero nel cielo di Roma, delle fiamme del blindato e delle vetrine devastate, ora si pensa alle manifestazioni future, già la prossima settimana quando riprenderà l'esame del disegno di legge Gelmini. E sono gli stessi veterani della piazza, quelli che erano a Genova, come Francesco Caruso, ad ammettere una certa preoccupazione. Io l'ho detto fin dal primo momento quando ho risentito questa favola dei black bloc, sarebbe tutto più semplice, sono quelli che lo fanno di per sé, lo fanno sempre e comunque, invece no, invece la cosa su cui bisogna riflettere, questo dato sociale, anagrafico, di questa composizione di coloro i quali sono stati per più di un'ora a Piazza del Popolo a fare gli scontri con la polizia. Dal mio sguardo, vedendomi in giro in quei frangenti, vedendo ragazzini che a stento arrivavano a 18 anni, che si scagliavano con appunto e scagliavano di tutto contro la polizia, bisogna appunto fare in modo di capire che cosa si è messo in moto. Non è che forse il fatto che c'è un'indifferenza crescente rispetto alle istanze di questo movimento, del futuro dove si proiettavano vedevano solo precarietà e mancanza di futuro. Quindi a chi, soprattutto dal PD, dice c'erano degli infiltrati, vogliamo sapere chi sono, chi li paga e tutto il resto? Quello sarebbe bellissimo dire, erano tutti pagati, prendevano 500 euro a testa per attaccare la polizia e così abbiamo rimosso il problema. Quali infiltrati? Ma erano una marea di pischelli che avevano una rabbia più contro la polizia, a quel punto anche una semplificazione e una banalizzazione dello scontro sociale. Da gruppi tipo Action dicono la situazione c'è sfuggita di mano. Sì, sicuro, perché con i compagni e gli attivisti di Action e tutta la rete di Uniti contro la crisi si era cercato di organizzare la giornata anche in termini di ribellione, di azione, di conflitto, dentro uno schema appunto di non esasperazione totale. Siamo in un certo senso, e parlo come realtà organizzate, siamo in un certo senso stati scavalcati da questa ondata di ribellione sociale, ribellismo spontaneo. E questo, secondo i veterani delle manifestazioni, è la cifra di quest'onda. La differenza più forte con Genova e le altre piazze sta nell'età giovanissima dei manifestanti, la ragione, secondo loro, di una protesta che può tornare a sfuggire di mano quando i segni delle fiamme e delle devastazioni di Roma non sono ancora stati cancellati. Italia in controluce. E da Roma ci spostiamo a Milano, dove sta scoppiando il caso della sede di Forza Nuova, data dal Comune di Milano e contestata da sindacati e associazioni, partiti dell'arco costituzionale e anche dallo stesso sindaco. Cristina Carpinelli. Forza Nuova è un'organizzazione di stampo neofascista. A questa organizzazione il Comune di Milano ha deciso di dare un locale di proprietà comunale in un'area molto centrale e frequentata dai milanesi, i Bastioni in Corso Buenos Aires al 22. La decisione di dare questa sede è stata sostenuta da un'area del PDL in comune. Il sindaco però, quando ha saputo dell'accaduto, ha chiesto l'immediata revoca degli spazi. Ora, per sgomberare la sede, gli esponenti di Forza Nuova hanno tempo 5 giorni. Praticamente il giorno in cui la inaugurano è il giorno in cui la dovranno chiudere. E loro che fanno? Organizzano un incontro lo stesso, sabato 18 dicembre, dal titolo «Le sedi del fascio si chiudono col fuoco», al quale prenderanno parte tra gli altri consiglieri comunali del PDL Aldo Brandirali e Marco Osnato e la consigliera provinciale del PDL Roberta Capotosti. Sarebbe più elegante non farne più nulla, ma i ragazzotti di Forza Nuova non mollano e annunciano un rigetto e un ricorso al Presidente della Repubblica. Insomma, la sede di Corso Buenos Aires non la vogliono lasciare. In effetti, come diceva qualcuno, due è meglio che uno. E infatti i 300 iscritti a Forza Nuova, perché sono 300, hanno già una sede in Piazza Aspromonte. Marco Mantovani è il portavoce di Forza Nuova. Lo abbiamo intervistato. Se abbiamo chiesto a noi, abbiamo partecipato a un regolare bando di concorso e l'abbiamo vinto. Ecco, è stata molto contestata questa scelta da parte dell'amministrazione comunale. No, non è stata contestata dall'amministrazione comunale. No, è stata molto contestata la scelta. Democratici antifascisti che contestano qualsiasi cosa riguardi Forza Nuova. Perché Forza Nuova non è un partito, diciamo, neofascista? Non lo so, Forza Nuova è Forza Nuova, siamo nel 2010, mi sembra di ricordare, il fascismo è stato un periodo storico superato con lati positivi e lati negativi. Ma politicamente dove vi collocate? Politicamente ci collochiamo in una terza via, né a destra né a sinistra. Quindi siete dei centristi? No, non siamo dei centristi. Allora, noi faremo quello che abbiamo deciso di fare, cioè di inaugurare la sede, una sede che abbiamo vinto, ripeto, un contratto che abbiamo vinto con un regolare bando di concorso. Quanti sono gli iscritti a Forza Nuova a Milano? A Milano gli iscritti a Forza Nuova sono circa 300. Resta il fatto che la notizia che questo partito, popolato da simboli e riferimenti culturali di estrema destra, abbia da sabato prossimo una sede tanto prestigiosa, è stata accolta da prima con stupore, poi con sdegno e con riprovazione, fino a che si è deciso di organizzare sabato 18 dicembre una vera e propria protesta. Onorio Rosati è il segretario della CGIL Milano. Che ci sembra che Milano stia diventando sempre di più una città rispetto alla quale c'è una forte tensione da parte di partiti e di movimenti che fanno espressamente riferimento al fascismo, e quindi ci è sembrato giusto in questa circostanza, avendo il Comune di Milano assegnato uno spazio su Corso Buenos Aires a Forza Nuova, abbiamo pensato di trasformare questa protesta, che sino ad oggi si era limitata dei comunicati stampa, in una vera e propria manifestazione cittadina, e comunque sarebbe un atto per la città veramente medaglia d'oro alla resistenza, sarebbe una provocazione assolutamente inaccettabile, ed è anche per questo che noi manteniamo il presidio e quindi la mobilitazione per sabato, perché sappiamo che nonostante il comune si sia mosso, c'è da parte di Forza Nuova la volontà comunque di inaugurare seppur simbolicamente questo spazio. Il problema è che quando loro si muovono richiamano poi simpatizzanti non solo da tutta Italia ma anche da tutta Europa, quindi Milano rischia di diventare un punto di richiamo anche di queste forze neofasciste che ci sono a livello europeo. È vero che come militanti qui sul territorio sono limitati dal punto di vista degli iscritti, ma stanno aprendo molte sedi, più sedi di quanto non siano i militanti, ma anche in ragione del fatto che poi quando fanno le loro iniziative svolgono una funzione di richiamo anche su territori più vasti rispetto alla città di Milano. Tenga conto che Forza Nuova una sede già ce l'ha in piazza Aspromonte, sì. Per cui non è che si sta mettendo in discussione il fatto che una forza politica, seppur riconducibile al fascismo, abbia una sede. Lì poi la magistratura dovrebbe verificare se siamo o meno in presenza di una ricostituzione del partito fascista che viene negata dalla Costituzione italiana. Il fatto che vogliano aprire in Corso Buenos Aires, unica forza politica della città, non è mai successo che una forza politica avesse uno spazio in Corso Buenos Aires, beh, mi sembra che sia una cosa assolutamente esagerata e non condivisibile. Era la seconda edizione di Italia in Controluce per quest'oggi 16 dicembre, la mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.